Bordo Campo di Dario Ricci. After review, the receiver controlled the football, came down on both toes, inbounds, touchdown. Io sono un po' un tifoso per la difesa dei Steelers. Ogni volta che li guardo c'è sempre quella difesa tipo la Steelers, no? quelli forti. Allora, per me andranno in finale loro. Nelle partite grandi vince sempre la difesa e per me vincono i Steelers. And Super Bowl 43 is history. The Pittsburgh Steelers have won the Super Bowl for a sixth time, unprecedented in the annals of NFL play. Beh, davvero non si può dire che l'ospite di oggi di A Bordo Campo non se ne intenda di football americano, visto che, come avete sentito, ha azzeccato il pronostico indicato proprio nei Pittsburgh Steelers, poi campioni nella vincente sfida con Arizona, i trionfatori del 43esimo Super Bowl. Nessuna sorpresa però, perché Giorgio Tavecchio, 18 anni, nato a Milano ma che vive a San Francisco, è l'unico italo-americano che gioca nel campionato universitario americano di football americano, con la maglia dei California Bears dell'Università di Berkeley. Il ruolo, quello di kicker, cioè colui che calcia le trasformazioni dopo il touchdown e i field goal, i calci da tre punti. Allora, Giorgio Tavecchio, 18 anni, da Milano a San Francisco, kicker della squadra di football americano della California University a Berkeley. Giorgio, spiegaci come sei finito a tirar calci a un pallone a punta in America. Io sono nato in Italia, però la mia madre lavora per sempre per il governo americano, allora noi dovevamo sempre fare traslochi dopo ogni 3 anni e siamo arrivati qui in California giusto per caso e ci siamo subito innamorati, si può dire, con la Bay Area, che è proprio bellissima, ci è piaciuta così tanto, anche le scuole qui sono buonissime e allora io volevo sempre andare a una scuola, a una università prestigiosa e Cal Berkeley è una delle più prestigiose scuole pubbliche in questo paese, allora per me era sempre quella priorità. Allora siccome Berkeley è veramente prestigiosa, è veramente difficile essere ammesso, no? Allora io dovevo usare forse lo sport a farmi essere ammesso e sono riuscito a usare il football per farmi entrare alla scuola e adesso mi trovo lì. Però era un po' strano perché essendo italiano giocavo sempre al calcio, no? E non ho cominciato a giocare al football fino al liceo qui. Ho giocato per un paio d'anni al liceo e ero abbastanza bravo, ma non era niente di speciale perché giocavo, come detto prima, sempre al calcio, allora le mie priorità erano sempre sul calcio. Ma comunque ho sempre mantenuto un livello abbastanza buono del football. Ho conosciuto un po' i mister in giro qui, che ho fatto un campo estivo a Cal un paio d'anni fa, kicking, mettendo la palla del football. Mi sono sempre ricordati di me e mi hanno offerto un posto in squadra. E i tuoi allenatori come ti hanno accolto? Magari si aspettavano che dall'Italia arrivasse un campione del soccer, non un talento del football americano. Beh, non lo so. Per loro basta che trovano uno che è abbastanza forte e trovano uno che può calciare la palla bene. Io come detto prima potevo calciarla abbastanza bene la palla, allora mi hanno offerto un posto in squadra. Del resto in America è un sistema molto diffuso quello di poter entrare nelle università potendo sfruttare le proprie qualità in qualche sport, vero? Tutti lo fanno, perché specialmente alle scuole prestigiose, come detto prima, è veramente difficile entrare, allora se uno può usare forse uno sport o qualcosa di particolare per essere ammesso, chiaramente cercherà di usarlo, e per me era sempre stato uno sport, sia il calcio, che anzi dovevo andare a giocare il calcio a UC Davis, che è un'altra scuola qui vicino che è anche buonissima, invece ho usato il football a Berkeley. Ma quella con la maglia dei Cal Bears è un'esperienza che stai vivendo solo in funzione dello studio o sogni davvero magari un giorno di diventare un giocatore professionista nella NFL? La scuola e i miei studi sono sempre state le mie priorità, ma per adesso sì, cercherò di continuare a prendere buoni voti, come ho detto prima, ma però sì, cercherò anche di migliorare nel football e vedrò dove mi porta, ma però per adesso lo studio è il numero uno e poi chiaramente il football viene secondo. Chissà nel futuro, chi lo sa, io non lo so, perché sono ancora giovane, posso anche forse diventare forte, se no posso anche diventare una pipa, non si sa. Ma però cercherò di fare il mio meglio in tutte e due fasi, no? Sia lo studio sia che lo sport, e vedremo dove mi porta, ma però mi piacerebbe forse giocare al football, sì, forse qui, forse anche in Europa, perché mi piace molto l'Europa, ma però c'è ancora da vedere. Non ho ancora deciso il mio major, che è lo studio, ma stavo pensando forse international relations, tipo relazioni internazionali, ma però non ne sono ancora sicuro, ma qualcosa del genere, forse un po' di politica, non lo so, ma vedremo. Nella NFL qual è la tua squadra del cuore? Quali sono i tuoi idoli? Beh, per me io non lo so, la mia squadra preferita, beh, sarà forse i Patriots, che io ho vissuto per un paio d'anni in Connecticut e mi sono sempre rimasti un po' simpatici i Patriots. E il mio il giocatore di football preferito è Vinatieri, il kicker italiano, no? È il mio idolo, si può dire, perché lui ha il cognome italiano, no? E poi ha anche fatto dei calci proprio famosi, no? per vincere un paio di Super Bowl. È lui il mio idolo, mi piacerebbe essere come lui. E in squadra, nello spogliatoio, come ti hanno accolto? Sin dall'inizio mi sentivo benvenuto in squadra, tutti sono stati veramente gentili, mi aiutavano tutti, però esagero un po' dell'italiano, no? del mio essere italiano, sì, sono italiano, però io mi sento californiano di vita, no? Ma però ogni volta che che parlo con qualcuno, loro dicono, oh, mamma mia, salame, quella roba lì, no? quelle battute lì, no? Perché sono un po' italiano. Sì, ma comunque mi sento benvenuto e sono tutti stati veramente gentili con me, e mi sento proprio uno normale in squadra. C'è qualche luogo comune che sopravvive nel modo in cui gli americani guardano a noi paesà, noi italiani? Beh sì, no, loro, beh, non è che sono tutti quel tipo, quel punto di vista stereotipico che noi siamo tutti, tutti cuochi, ci piace mangiare la pasta, la pizza, però sì, c'è quel stereotipico, specialmente in squadra, nel modo della squadra, tutti dicono, oh, ciao Giorgio, salame, mozzarella, di giorno, pasta, pizza, tutte quelle robe lì, no? Allora sì, c'è un po', beh, mi si fanno un po' di battute con me, ma non è che è proprio troppo... troppo tanto, non è che lo fanno tutto di sempre, ma comunque c'è abbastanza, no? quelle battute, no? E la vita nel campus di Berkeley com'è? Immagino che gli studenti stranieri non manchino, vero? Sì, no, Berkeley è un campus veramente un po' diverso, si può dire, cioè, ci sono tanti studenti internazionali, stranieri, ma per me io mi sento proprio benissimo al campus, io mi sento uno di città, no? Devo essere in giro a gente, devo essere in giro a vita, no? a persone. Allora Berkeley è una città proprio diversa, strana, e che c'è strana gente, ma però mi piace, no? Un po' diversa, diverso di quello che sono abituato, e allora mi trovo benissimo, e poi anche è 10 minuti da casa mia, allora non è che sono tanto lontano dai miei, allora posso tornare quando voglio, ma però Berkeley come campus mi piace moltissimo, è proprio una nuova esperienza e me la sto godendo tantissimo. Il tuo ruolo, quello del kicker, è davvero molto particolare. In campo si sta pochi istanti per calciare e tanto tempo invece lo si passa in panca a sostenere i compagni che avanzano a forza di placcaggi e touchdown. Come ti prepari per reggere tutta questa pressione, per prepararti al momento decisivo del calcio? Sì, posso fare un paragone col calcio, che nel calcio se io faccio uno sbaglio, faccio un passaggio sbagliato, no? Posso guadagnare la palla indietro e vincerla indietro, fare altre cose in partita, però in football io ho un'occasione per trasformare il calcio, per fare un calcio buono, allora c'ho molto più pressione in ogni calcio, ma per me io cerco di rilassarmi, essere ben tranquillo, perché so che posso trasformare il calcio, siccome c'è questa pressione un po' strana che non sono tanto abituato, io cerco di in ogni allenamento cerco di mettermi su quella pressione, no? Così mi posso abituare ad essere più preparato e più pronto, no? Nel calcio non potevo fare quello che volevo, no? Ma qui faccio un calcio, se sbaglio devo uscire, devo aspettare per il prossimo calcio, allora non è che posso fare tanto, ma comunque se faccio quel calcio sono un dio e basta, non devo fare più niente. Insomma, per capirci, è come se fossi un portiere in una squadra di calcio. Come? Sì, un po'. Può fare il paragone, sì. Se giochi bene nessuno ti vede, ma però se fa uno sbaglio ti vede subito, no? Ma ci sono dei posti, degli stati in cui il football è più amato o è una passione che attraversa tutti gli States? secondo me è una passione che coinvolge tutti gli stati, però se vai giù al sud, you know, specialmente in Texas, Oklahoma, in uno dei stati giù al sud, il football è come una religione, no? E se vai lì, cioè, non ci sono tante, you know, tanti altri sport, allora tutti guardano solo al football, you know, per loro è una religione, vanno tutte le domeniche, you know, vanno a guardare le partite dell'NFL, you know, e poi tutti sabato vanno a guardare, you know, le college games, però se vedi in tutti gli stati c'è quell'amore per il football, you know, dappertutto. Quello attuale è certamente un momento difficile per il mondo, ma per gli Stati Uniti in particolare, vista la crisi economica. Come stai vivendo tu, giovane giocatore di football e studente universitario, questo momento? Beh, io sono veramente ottimista, no? Mi trovo benissimo a scuola, i miei stanno benissimo, io proprio sono contento, e spero nel futuro. Poi presidente Barack Obama, specialmente a Berkeley c'è tanto ottimismo per lui, no? Che noi siamo, si può dire che Berkeley è conosciuta per essere liberale, Obama è un presidente democratico, allora tutti hanno un po' di speranza in lui e per me. Io cerco di godere la mia vita ogni giorno, una alla volta, così posso godermi tutte le robe che ho e posso apprezzare quello che ho e non quello che non ho. Sì, conosco parecchia gente che sono nei guai finanziariamente, con le case, specialmente qui in giro, ed è per questo che sto cercando di apprezzare quello che ho. È un peccato, lo so, ma questo paese, speriamo che ritorni a mettersi a posto, no? Speriamo. Ma Giorgio, senti, diccelo francamente, tra un buon voto all'università e un calcio decisivo trasformato nella finale del torneo universitario, cosa sceglieresti? Beh, io sceglierei sempre i voti, no? Perché un calcio è un calcio, però una educazione ti resta per tutta la vita. Allora per me è sempre la priorità è sempre sugli studi. Un'ultima cosa, ti manca ogni tanto il calcio italiano? Per quale squadra fai il tifo? Io sono interista da sempre e mi manca il calcio tutti i giorni, ma io seguo sempre il campionato, sono sempre interista, sono rimasto sempre interista. Allora, se ho capito bene, il sogno è sì vincere un Rose Bowl o un campionato di football, ma anche vedere da vicino i tuoi campioni, da Ibrahimovic in giù, insomma. Sì, il mio sogno è così. Ma sai che anche ho giocato una partita a San Siro, che ha fatto un campo estivo qui. Beh, il campo era del Milan, ma comunque sono andato a San Siro a giocare, che mi hanno scelto dal campo estivo, allora ho giocato sul terreno santo, no, sacro. Di San Siro, che era uno delle giorni più belle della mia vita, no? Bene, grazie a Giorgio Travecchio che ci ha aiutato a conoscere l'America del football. A bordo campo. Notti magiche. Questa notte, intorno alle 3, un barcone che era stato avvistato a circa 60 miglia dalle coste di Lampedusa è stato portato in porto dalle motovedette della Guardia Costiera e da un pattugliatore della Marina Militare Italiana. A bordo del barcone erano in 300. Quel sogno che comincia da bambino. Si inasprisce la lotta all'immigrazione clandestina operata dal ministro dell'interno Roberto Maroni, che prosegue domani con un viaggio a Lampedusa, l'approdo principale delle migliaia di clandestini che arrivano tutti i giorni dall'Africa. Yaki, Ismaele, Ismaila, Mustafa, Ibrahim la conoscono bene Lampedusa. Ci sono passati in fuga dall'Afghanistan o dalla Guinea, dall'Eritrea o dalla Nigeria, in cerca di una nuova vita, in fuga da guerre e persecuzioni. E allora Lampedusa è più di un'isola, è un confine, una sottile linea bianca che divide passato e futuro. Tra l'essere di qua o di là di quella linea passa la stessa differenza che c'è tra un obiettivo raggiunto o solo sfiorato, un gol fatto o una gioia che resta strozzata in gola. E proprio intorno a un campo di calcio, Yaki, Ismael, Ismaila, Mustafa, Ibrahim e altri rifugiati o richiedenti asilo politico in Italia stanno provando a immaginare un altro futuro. con indosso la maglia della Liberi Nantes, una squadra di calcio del tutto particolare, come spiega il presidente Gianluca Di Girolami. Questa squadra nasce circa un anno e mezzo fa e è composta per nostra volontà. Noi abbiamo fondato un'associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo statutario quello di diffondere e promuovere l'attività sportiva all'interno della comunità dei migranti forzati, definiti rifugiati, richiedenti asilo, ma in realtà sono tutte quelle persone che per le ragioni più disparate, persecuzioni, violenze, torture, guerra, sono costretti a scappare dai propri paesi, cercare una terra dove ricominciare e poi, che la cosa più importante, non possono più tornare indietro. Siamo voluti ripartire da un campo di calcio per dare asilo in una maniera diversa con lo sport. Appuntamento due sere a settimana al campo Fulvio Bernardini di Pietralata a Roma, tanto per divertirsi. Ma poi si sa come vanno a finire le cose quando il pallone comincia a rimbalzare in campo, vero presidente? Noi quando abbiamo iniziato lo scorso anno non avremmo mai pensato di partecipare ad un campionato, però c'è stata proprio la spinta dei ragazzi. A un certo punto loro ci hanno chiesto di misurarsi con qualcosa di più importante. Su questo siamo stati supportati dalla Lega Nazionale Dilettanti e Federazione Italiana Gioco Calcio, che su questo ha concesso a noi, perché siamo una squadra per l'appunto particolare, di poter partecipare a un torneo di terza categoria, fuori classifica, perché noi non possiamo, per mille ragioni di ordine normativo e regolamenti interni, addirittura dell'UEFA, partecipare a pieno titolo a un campionato, ma comunque chi gioca con noi gioca la partita perché per lui i punti valgono. E quindi è iniziata questa avventura. I ragazzi indossano questa maglia e noi col tempo ci siamo accorti che sono molto più attaccati di quanto potessimo immaginare noi stessi a questi colori. E difatti il fatto che poi non si vada bene, che ci siano grosse difficoltà di ordine organizzativo, di ordine economico, a mandare avanti una squadra come le altre, quindi le sconfitte che intervengono, questo a loro crea molti problemi perché ci rimangono veramente male. E allora tutti in campo con la maglia bianco-blu della Liberi Nantes e tanta buona volontà. In panchina un mister abituato ad amalgamare tanti ingredienti diversi. Fabrizio Proietti, professione pasticcere. Un compito un po' particolare, soprattutto perché alleni i ragazzi di varie etnie. La cosa più difficile è la lingua, è il primo componente, insomma, difficile da amalgamare. E poi, insomma, le varie esigenze loro, sia a livello di lavoro, di tempo a disposizione, quindi diciamo che faccio l'allenatore, ma più che altro, insomma, è un intrattenimento riguardo a loro quando vengono lì a giocare, insomma, niente più, non è proprio l'allenamento, perché mettersi a allenare ragazzi che, insomma, durante la giornata ci hanno problemi molto particolari, insomma, è superfluo, insomma. Quindi si tratta più di intrattenerli, di farli svagare, farli divertire, insomma. Colori scelti non a caso, il bianco e il blu della maglia della Liberi Nantes, gli stessi colori della bandiera dell'ONU. E allora tra le tante associazioni di volontariato che sostengono questa squadra spicca il patrocinio dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati politici. La portavoce Laura Boldrini. La cosa di cui c'è più bisogno per i rifugiati, insomma per tutte quelle persone che fuggono da guerre, da violazioni dei diritti umani, da sofferenze, ecco, è proprio la normalità. L'attività sportiva, il calcio sicuramente aiuta questi ragazzi a riprendere un ritmo di normalità e anche a essere motivo di distrazione, perché molti di questi ragazzi si portano dietro delle storie terribili e un bagaglio di violenze e di atrocità difficilmente superabili. Per cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha sostenuto l'iniziativa appunto di istituire questa squadra, la Liberi Nantes, proprio per il significato che può avere una squadra di calcio fatta, composta da persone che hanno queste esperienze e questo bagaglio. Tutto questo va avanti grazie anche alla generosità di chi ha voluto credere in questa squadra. 90 minuti più recupero, ogni fine settimana inseguire un gol che è un pezzo di futuro. A bordo campo restano le mille storie di destini in fuga, come racconta il presidente Di Girolami. Noi abbiamo una regola dentro questa squadra, non abbiamo mai chiesto nulla del loro passato ai ragazzi. Ora, quando queste storie poi emergono è il risultato di un rapporto che esce fuori dal campo di calcio, diventa un rapporto d'amicizia. Le storie sono quelle di chi fugge, di chi perde per strada pezzi di famiglia, pezzi di vita, non sanno dove sono i loro genitori, non sanno che fine hanno fatto le loro mogli e i loro figli in altri campi profughi, hanno difficoltà a ricostruire un passato e quindi figurarsi ad immaginare un presente e un futuro. Molto spesso loro sono molto più forti di noi, anche nelle difficoltà, e ci insegnano come affrontare queste cose, magari con un sorriso, magari con una battuta. Le immagini, le scene che ogni giorno arrivano da Lampedusa restano nel cuore e nella mente. Noi abbiamo molti di quei ragazzi che quelle scene le hanno vissute, quindi sono passati sui barconi, sono stati a Lampedusa, sono stati nei centri d'accoglienza, hanno fatto i voli con i voli militari, quindi queste cose le sanno perché ci sono passati. Per loro vederli tante volte vuol dire probabilmente riaprire vecchie ferite. Il dibattito sulle norme per l'immigrazione, le tensioni legate alla gestione dei flussi migratori verso il nostro paese, le difficoltà di costruirsi una nuova vita fanno sentire la loro eco nello spogliatoio della Liberi Nantes. Adesso quello che sta avvenendo si sente a pelle, nel senso i ragazzi sono tesi, sono in grossa difficoltà perché percepiscono un futuro che diventa sempre più incerto. Lo percepiscono anche all'interno dei centri, dove ci sono sempre più difficoltà adesso ad andare avanti perché i fondi via via stanno diminuendo. Gli stessi centri di accoglienza, i cosiddetti CARA, quelli destinati ai rifugiati richiedenti asilo, fanno fatica a decollare. Tutte queste cose al loro interno, nel loro mondo, sono informazioni che girano. Magliette e pantaloncini, scarpette ai piedi, palleggi, cross, pressing, parate. Ma il vero gol è ancora tutto da segnare, e il prima possibile, fuori dal campo. Questi ragazzi adesso la cosa che chiedono in assoluto è il lavoro, è ricominciare a vivere. Noi diamo una scheggia di normalità, noi diamo un piccolo contributo affinché il loro quotidiano torni ad essere il più possibile normale. Noi siamo una squadra, come la definiamo, aperta e di transito. Abbiamo, tra virgolette, perso molti ragazzi che sono partiti per andare a lavorare al nord, Trento, Vicenza, Brescia, Modena. Quando vanno via per andare a lavorare ci piange il cuore perché ovviamente abbiamo perso un pezzo che è cresciuto insieme a noi, ma siamo contenti perché ricominciano a vivere una vita, diciamo, più normale. Noi sappiamo bene che è un campo di calcio, che è una palla che rotola e che è molto importante, ma è la cosa più importante tra quelle meno importanti. Ma insomma, non è poi che i calciatori della Liberi Nantes siano così scarsi. Anzi, qualche buon talento arrivato dall'Africa si è già messo in luce. E allora, presidente Di Girolami, perché non mettere in piedi una bella amichevole con la nazionale della Padania? Magari a incontrarsi a centrocampo ci si capisce meglio, no? Siamo nati per giocare con tutti e per far giocare tutti. Figurarsi se non giocheremmo con loro. Anzi, ci mancherebbe. Sarebbe una vera partita amichevole da mettere in piedi. Mancherebbe, no? Siamo nati per giocare con tutti quanti. Sarebbe comunque importante incontrarsi. Io credo che è dall'incontro che si cominciano ad abbattere le barriere. Noi abbiamo imparato tante cose conoscendoli, abbiamo imparato tante cose confrontandoci con loro, abbiamo imparato che per quanto uno predichi anche la lotta alla discriminazione, la lotta al razzismo, poi vivere il giorno per giorno, conoscerli, ti fa capire che è un percorso non solo importante per un paese civile, ma un percorso necessario che fa crescere tutti. Alzare muri ci rende più piccoli, non ci rende più grandi, ci rende più deboli, non ci rende più forti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Grazie a Carmelo Lauricella e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo la nostra mail abordocampo@radio24.it e che potete riascoltarci sul sito www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.